hai visto che ti ascolto, hai visto? Se segnale 5, non è che sei alto, se segnale 5, qua sa sei da me, sei 5. Io no. Dritta, altro non ti posso dare. Sì, capa, ho detto, però almeno arrivo, dai, non è che proprio sono 0-0. No, non sei tu. Io l'avevo in quel segnale. Va bene, la verità va bene. La radio è più che altro è comprensibile, hai capito tutto quello che ti voglio dire. Io ti capisco, capito quando parli, tutto lì. Beh, almeno so che c'è qualcuno che mi capisce, là, anda benissimo, anda bene. Ho capito che hai capito, non c'è problema, meglio così. Giulia, hai avuto appena la birretta, tanto me. Sì, ho avuto adesso una birretta. Cioè, prima mangiavola, naturalmente, non è che bevo la birra a cazzo così, alla cattolicana come facciano tutti, cioè in pratica che bevi, mi sono mangiato due pizzette, quindi figurati tu, due pizzette e... Te la fate veramente buona alle 7. La verità, qua vicino a casa mia. È strano, amico. La verità è veramente strano. Anto! Eia! Ma girate la ragazza che cuccia! Girata! Voglio io! Già bravo! Fulvia, tra un po' come, mangio un po' di passaggi e va, anda a dormire, ando. Fino a vizio, voglio via. Ma di casino, me. Sì, vabbè, lo sai, c'è un bambino anche tu, quindi a un certo punto devi fare. Non è che ti puoi distrarre, cazzo, col baracchino, la discorso è quello. Io bambini non ne ho, però lo sai che quello che ho a un certo punto già mi capisci. Ti capisco, non so. Appunto per quello, quindi in pratica a volte è totalmente diversa. C'ho bambini, c'ho quello che è, però a un certo punto, vabbè, già mi hai capito, e mi sta anche bene, intanto lei ci sei passato anche tu, quindi a un certo punto, pazienza e basta. Ciao belli bei, sono entrato a salutare, sto andando a cenare. Buon proseguimento. Buona cena. Grazie, chi è? Chi è? Champagne? No, Giovanni, da questa parte, di Zuzu. Ciao Giovanni anche a te. E quindi ciao Antonello, Bombolo. E buona cena per me. Ciao a tutti, vai Antonio. KK, ok. Ah, grazie a Paco MPP4, bellissimo. Ma tu? Tu. Più 5, MB più 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va benissimo, va. Ehi, adesso per un po' di giorni lo lascio, dai, almeno lo utilizzo. Se no è inutile averlo comprato. È sempre fermo, io preferisco il palmare. Va bene, riprendi Antone, querti per me. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ci sentiamo domani al limite, là. Tanto domani devo andare dai medi a farmi la spesa, quindi se tu sei a quell'orario di solito che fai tu, Marco, ci vediamo lì. Poi ci beviamo un bel caffè, quello che è, eccetera, eccetera. Domani. No, ma domani è domenica, mi trovi lunedì magari. Beh, ma dovrebbe essere aperto, naturalmente. No, ma domenica... No, domenica no, non vado, Antonè. Vabbè, già avremo occasione. Va bene, ciao, vado. Antonio, riprendi. D'accordo, ok, va bene, ok, non c'è problema. Ma tu Antonio ti chiami? No, Antonio, beh, il bello, la verità. Oi, oi, oi. Ehi, dai. Ciao, dai, buonanotte, va. Ora lo puoi dire però, cioè. Marco, buonanotte. Buonanotte Marco. Beh, io ragazzoli, io chiudo le trasmissioni e mi nando guardrummi che sono stanco. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte Antonio, a domani. Buonanotte a tutti. Sì, buonanotte. Ma perché sta facendo così basso? Cosa cavolo di... Cosa gli ho tagliato l'antenna che sta cosa? È strano. Ma cazzo, dite da Marco? No, non a Marco, no. A cosa? Quello più basso, cazzo, non ho capito che cavolo sia. Ce n'è uno che arriva a Santiago 5, non ho capito che sia. Da nuda, guarda adesso se mi senti bene, forte e chiaro. Non è a... Ciao, va a poco? Ora! Adesso va... un pochettino va bene, però sei basso di segnale, la verità. Vabbè, sono una cosettina piccolina, dai. Quello che è, ognuno fa quello che può, dai. Buonanotte! Vabbè, dai, buonanotte! Ciao, ciao, buonanotte a tutti! Ciao, Anto... Buonanotte. Ho capito chi è quello. Amico, chi sei? Giovanni da questa parte. Secondo me non sei Giovanni. Secondo me sei quello di Durvi. Cosa sei dicendo, Antonio? Se te lo sto dicendo che è Giovanni. Giovanni, sicuro sì. Certo che sono sicuro. Non lo so. La roba che mi sembrava quello di Nurri, che parlava una volta con quello di Osilo, eccetera, eccetera. Va bene, dai, Antonio, dai, buonanotte. Che andrò a dormire, dai, ciao, ciao. No, te lo posso assicurare io, te lo posso assicurare io. Ok. Ciao, ciao, buonanotte. Allora, non so io questa non so cosa dire. Vabbè, comunque sia, ascolta, stanno facendo una specie di, vabbè, già te lo spiego quando ci troviamo di persona, giù al bar, hai capito? Una specie di... posso dire, vabbè, te lo spiegherà lui, te lo spiegherà Tonino, quindi io non te lo so, vabbè, te lo spiegherà Tonino, quindi a un certo punto, poi, a un certo punto, se lui va bene così, in pratica segna, se la piglia in Napoli a un certo punto. Non so manco cosa cazzo mi sei dicendo, la verità. Vabbè, dai, la puttidina, Antonio, dai, ce ne parliamo di persona. Non so manco cosa mi sei dicendo. Vabbè, dai, buonanotte, ciao ciao. Vabbè, d'accordo, ok, facciamo così, dai. Non c'è problema. C'era la regione più che altro per fare una specie di... come ti posso dire? siamo 500 persone, eccetera, eccetera, hai capito, tra animatori, CB e cose del genere, hai capito, tutto quello, tutto lì in pratica. Annubi, non a Sassari, Annubi, più che altro. Sto solo dicendo perché vabbè, quando ci vediamo te lo faccio spiegare da cosa, da in pratica. Da quello di che c'hai lì? È sparito. In pratica, hai capito? Il tempo non è possibile, quindi a un certo punto ti hai capito anche tu. Allora, ecco, io sono qui Gianni Sampi da Sorso, no Giovanni. Bella Sampi, e io sono sempre Giovanni. Aspetta un secondo che mi stanno rompendo le palle. Sono scuola di Tesla, 2 minuti. Ero Mattesi, quando mi ha ammettato la sigaretta di tabacco, mi dice pubblicizzato, Mattesi sono andato a famiglia. Mi hai fatto arrabbiare. Ma non me l'ho fumata, fissami, mezza me l'ho fumata, se non è... Cazzo, do che mangiare, mi sono credo, do la bocca. Ale, non mi ha buriato, ma la nausea mi ha fatto. No, ma te l'ho detto, mi ho fatto 2 tiri vicino alla finestra, gli agenimi. E niente, poi mi ho bevuto appena da quel limone e baccava meno su sarrasso di Usaoli. E adesso dai, dimmi se muove. E io pure, fatti bene però, che lo limone con lo zucchero e cose, dai, è buono. E poi quando ti fumi la sigaretta ti lascia sorrante quella cosa, mamma mia. E ci fai aiuto da energetica amici. Aiutati fatti. Oh yeah. No, ne avevo due a capito di chi sa fracca di Bobo Male, ma aveva fatto quello, tutto quanto, non avevi più Bobo Male, sei anni. Tutte che Sant'Onello di Sassari con l'elicottero era battuto. No, io magari dai, l'ho fatto brinchiare. Ci sei Antonello, una via fitta. No, forse è atterrato. Se va se ne mancato un kerosene, se tutto quanto revigliato. E tanto è andato a carreggiare, allora ponedore. Ui, però lo sentivo un po' lontano, mentre l'altro giorno lo sentivo più forte. No, a me me la rivende peggio, già era comprensibile, beh. Ma solo chi fa via questo coso di gatto dell'ecco, paria gatto Iuia, fa vedere dall'acqua dell'aria. No, già lo sentivo, ma cazzo buco è strano, perché lui dovrebbe essere tipo andare da Robonti Rusi, non in bagno di Mudani, dove una volta c'era quel ragazzo che aveva l'officina e vendeva qui. Ma era un Montinuovo di lì, o già? Un Montinuovo a Senneni dal monte, là. Ah, allora detto che non ero Giovanni, ero di Usilo, il più in basso di Usilo sto qui. Te lo credo. Eia. No, quello di Usilo si chiama Claudio, mi sa. E a lui stesso non lo sento bene, lo sento piccolino perché le vaccine che è una posizione che io dietro ho senno di tutta la circonvallazione e quindi magari con la mia antenna dici che è un po' guizzosa, no, il bigliuve. E niente, però del resto tutto il visto si intende tutto bene. Ma io già, non ero Giovanni, ero Guido di Osilo. non era convinto, compreso. E allora, lui di me non nasce un grabbi e figo di me, faccio solo un cavallo e no. E infatti, non è che andiamo a cavallo, no, non sei. Gloria, me che la gente un po' scusami. Da poi di la verità e lei ti dice un fiuto di fauli, e non sai manco da ne licini, si licini da sotto di zicchio o da sotto di guglio. Vabbè già, noi siamo tutti un brutto da voi, e quando è condito ci rubiamo. E allora, a voi ti succede un suo buco. E allora, a brutto no? Zia. Ma che? Non lo so, magari adesso non lo so se in ascolto mi, però già penso che mi intendi. E cosa vuoi fare già? Se gagliamo. No, ma noi siamo sempre discutendo tranquillamente. E niente. Franco è andato in QRT, quindi in ricarica. Antonio non subimmo. Non lo so se è andato in ricarica anche lui. Di buonanotte. E niente. Mi sa siamo rimasti, io e tu. Avanti, cosa fermo? Puntiamo a tre, uno, due, tre, che si buca. Antonio è andato a caricare le batterie di ruletto. E allora mi serve un bottone, che si giù, uno, due, tre, se ci la beffa, andiamo a si buca. Allora, qui la donna, ci la fa duro. E allora mi ci dico cosa a me, l'altro uno, come si chiama, pura uno. Oioia, vabbè, ma com'è domani domenica? È vero, là. Cosa fermo? Maccio femmina. E allora, avanti, avanti, chiudiamo tutto. Così tengo anche le luci qua per gli uccellini. E niente, almeno sono un po' più tranquilli. E ti balzemmo appena i maragni. Che vi avevamo tutti i canti arrotolati oggi, a tipo i spaghetti in salsa di pomodoro. E già mi aveva aiutato, mi aveva appena sono conciliato, allora mi pongo un filmaretto e abbaio un po', scusate. Oh già, domani a mezzano si visi, fammi, scusami una volta di nocca. Tanto attendo io domani a mezzano, già sempre attesi, tanto so che non ci fa poca cosa domani. E a KK Giova, allora mi buonanotte, buona ricarica, ci sentiamo domani, tanto più o meno io riaccendo verso le 10 le radio e niente, se è già sempre in ascolto. Andavè, buonanotte Giova, buon tutto e ci sentiamo nei prossimi mesi. Ciao ciao. Anche a te già, buonanotte, dai, domani già ci sentiamo. Tanto già te ne arrivi, già te ci sono, già te ripigliamo, dai. E ciao Giova, buonanotte.